cartoline per Copenaghen. I come from Kericho District, Rift Valley, in Kenya. Nelly Damaris è una combattiva contadina del villaggio di Kipcheboar, nel Kenya occidentale. Sposata, madre di 5 figli, coltiva mais e tè e si impegna attivamente nella comunità. La sua regione natale, la foresta di Mau, è al centro da anni di una grande migrazione. Sono i profughi delle campagne del nord-est che fuggono l'avanzare del deserto. Le donne della mia comunità hanno molto da raccontare sui cambiamenti intervenuti in questa zona del Kenya negli ultimi 30 anni, racconta Nelly. In alcuni casi io stessa ho potuto esserne testimone diretta. Per conquistare la terra da destinare agli insediamenti umani e all'agricoltura sono state estirpate macchie di arbusti e abbattuti alberi di foreste centenarie. Poi il governo si è accorto che il grave degrado ha compromesso il bacino di raccolta d'acqua del paese, da cui scorrono almeno 12 fiumi verso il lago Vittoria. Ciò che più mi preoccupa, prosegue, è il cambiamento del regime delle piogge. Nei miei ricordi di ragazza, il giorno di Natale era l'insegna delle piogge torrenziali, ma da qualche anno non è più così. A volte il caldo è tale da far avvizzire anche l'erba, e questo significa meno foraggio per le vacche e quindi meno latte. Bisogna agire, conclude Nelly. Bisogna educare soprattutto le persone al cambiamento.